non dovete fare così, perché poi le persone si aspettano chissà che cosa deve venire e poi vedono una cosettina là. Accomodatevi, che bello essere insieme, che bello essere insieme. E questa sera, perché è speciale, perché è una nuova fase, abbiamo i doppi culti, mi hanno detto che l'orario è ancora estivo, quindi manteniamo ancora l'orario estivo. Ed è speciale perché insieme possiamo costruire, dobbiamo costruire quel cammino che il Signore ha messo dinanzi a noi e anche per gli altri, e quindi inizia una nuova fase. Questa sera invece parleremo, il nostro soggetto sarà l'Evangelo, o meglio quello che l'Evangelo è e fa. Sappiamo tutti che cosa vuol dire la traduzione, perché Evangelo è una parola che deriva dal greco, poi tradotta in latino e poi in italiano è diventato Evangelo, ma il suo significato reale è una buona notizia. Ancora più letterale il significato è lieto avvenimento, un avvenimento molto bello. Quindi noi possiamo dire che Evangelo significa il soggetto di questa sera. Che cos'è? Ormai tutti lo sappiamo, no? Mi piace. Io lo usavo da giovane, ma lo usavo per fare... Mo lo dobbiamo fermare. Positivo. Positivo. Vuol dire positivo. Il Signore pensa positivo. Il Signore agisce positivo. Il Signore vuole che noi siamo positivi in tutto quello che facciamo. Siamo, diciamo, dobbiamo essere positivi. Positivo. Fermo il foglio, altrimenti. Positivo è dire bene e pensare bene. Positivo è vedere bene. Dio vede bene. Dio agisce bene verso Dio. L'abbiamo cantato. Dio è buono. Per me, per noi, ed è veramente buono. Ora, da parte del Signore c'è una notizia buona e una cattiva. Si inizia sempre con quella cattiva, diciamo quella cattiva. Quella cattiva, la notizia da parte del Signore è che sei morto. Sei morto. Ed è reale. Cioè, questo è il messaggio dell'Evangelo, non è una cosa, sei morto. In Romani, al capitolo 6, il verso 2, dice letteralmente questo, che noi siamo morti al peccato, sei morto al peccato. Perché? Perché se solo la morte ti affranca dal peccato, solo la morte. E il Signore ha permesso che noi potessimo morire, ma è morto Cristo per noi, è morto Cristo per noi, affinché la vita venisse dentro di noi. Allora, se questa è quella negativa, la positiva qual è? Risuscitati. Nello stesso, andatela a leggere. Romani 6, è così bello, è così positivo, è così incredibilmente entusiasmante che fa vedere quella che è la nostra vita. Ci ha risuscitati, siamo morti con Cristo, il battesimo rappresenta questo, morti con Cristo e risuscitati con Lui. Una nuova vita, un nuovo cammino, non abitudinario, non di routine, mi raccomando. Vi supplico, ma veramente lo dico con tutto il cuore, non vivere il Signore come un'abitudine o la Chiesa come un'abitudine, non venire più, Te lo dico sinceramente, con tutto. Se lo devi fare perché è una routine, perché è qualcosa ormai, che cosa devono, poi mi vedono e dicono, ah, e perché non sei venuto domenica? Non ti preoccupare, mi metto io davanti che ti difendo, però non farlo, non essere nella tradizione e nell'abitudine, perché questa uccide la gioia e la fede che il Signore ti ha donato, uccide ogni cosa di buono che Dio ha messo dentro di noi. Fallo con la gioia di vivere l'Evangelo in ogni situazione, e quindi anche questa sera il Signore pensa estremamente positivo e vuole che noi pensiamo anche positivo dell'altro. Pensi positivo di tuo marito? Di tua moglie? Sì, dice la notte quando dorme, se non russa. È un esercizio, è un allenamento. Non è qualcosa che ti viene addosso, perché noi abbiamo ricevuto tanti di quegli input negativi che ci portano a pensare: io non sono capace, l'altro non è capace, nessuno è capace, il governo è capace? No. E quale governo? Di destra, di sinistra, di centro, di quello sotto, sopra? Nessuno è capace. E il Signore dice: pensa positivo. Pensa bene. E lui lo fa, e lui lo fa con tutti quanti noi, con tutte le categorie. Leggiamo un passo adesso che ha del sorprendente, e questo è nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 2, il verso 12. Credo che, ecco, vedi, proprio... Ah, è un po' più lungo, comunque va bene, poi lo leggo io, perché non credevo che il verso 12 parlasse solo: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Poi continua, non so se lo riescono a mettere velocemente, se no lo leggo io, perché questo è solo l'inizio, l'approccio iniziale, ma poi continua e dice: io dovevo dire e gli altri versi, pure il 13, ma va bene, pure il 14, ma va bene così. Però ascoltate che cosa dice adesso. Dice, l'abbiamo già letto: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. E poi nel verso di dopo ripete queste stesse cose. Quindi si rivolge prima di tutti ai figlioli. Chi è figliolo? Chi sono i figlioli? E con un po' più di entusiasmo, cioè proprio sembriamo proprio i figli di un pezzente, invece figli di re e di principi. Io com'è? L'orgoglio mio è appartenere al Signore. Noi siamo i figlioli. Noi tutti siamo stati, come abbiamo letto, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati. Mamma mia, noi non ne afferriamo l'importanza e la gravità di questo, ma io credo che noi lo viviamo, e questo è ben più importante, che i nostri peccati, che noi siamo stati riscattati, che noi non abbiamo la pena e la condanna di più, mai più sul nostro collo. Noi siamo stati riscattati dal Signore, anzi dice molto di più. Vi faccio leggere questo versetto, dovrebbe essere completo adesso, ma vedete che cosa dice. Ah, l'ha messo anche completo, che bello. Però un'altra cosa, già che ci siamo, proiezione, tutti, posso leggere là, non arrivo, ma comunque mi giro. Ma portiamo la Bibbia con noi? Sì, lo so, pure io. Da quando c'è il cellulare, nel cellulare. E devo dire, è più facile. Quando non mi arrabbio con la rete che non mi collega, va tutto bene, va tutto bene. Ma è bello perché lo puoi leggere in ogni momento. Ascoltate che cosa è scritto in Romani, al capitolo 5, il verso 8. Lo dice di te e di me, ma è assurdo, cioè non è reale, non è una cosa vera, non lo so come dire, ma quello che dice: Dio invece mostra il proprio amore per me, per te, per noi, in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non ha dell'assurdo questo? Non ha dell'assurdo? Incredibile, quando ha creduto in te, quando ha creduto in me il Signore. E io di me posso dire, non lo meritava, non lo meritavo di credere che lui credesse in me. Ha creduto tanto in me. Lui vede oltre, mentre io vedo, che ne so io, i miei peccati, lui vede il mio riscatto. Mentre io vedo che non sono capace, che non riesco per un motivo, per un altro, lui vede che io sono capace. Lui vede che tu sei capace, che ce la fai. Non che ce la potresti fare, no, per lui è certezza che sei capace. Per il Signore noi siamo una certezza. Mentre io vedo i miei fallimenti, e li vedi quando stai a pensare, a ripensare, quante volte affiorano alla mente i vecchi fallimenti, grandi e piccoli, e ti mettono una cappa addosso e ti fanno sentire come in quella occasione, invece è già nel passato remoto, è incredibile, però come rimane vivo. Lui vede le vittorie. Il Signore vede che hai vinto, che stai vincendo, perché stai camminando, e il camminare è vincere. Questo è il positivo del Signore. Anzi, c'è un bel esempio di quanto Lui crede in noi. Lo dobbiamo tenere ben fermo questo esempio. C'era un giovane volenteroso, lavoratore, che lavorava di giorno e di notte, ma lavorava di notte perché a causa dei suoi nemici, che volevano rubare tutto quello che lui produceva, tutto quello che lui faceva, e quindi era costretto a nascondersi. Poi quando andava a casa dai suoi, quello che si sentiva dire era: zitto, perché tu sei piccolo, perché era il più piccolo della famiglia, zitto, perché tu sei piccolo. Andava dagli amici, dice: beh, qua almeno, non dico giustizia, un po' di grazia. E che cosa sentiva dire dai nemici? Ma che vale la tua famiglia? Non vale proprio niente, è la più piccola, è la più miserabile, è la più povera. Sapete di chi parlo, no? Gedeone. E lui è cresciuto con questo. E poi a un certo punto è arrivato un uomo, è arrivata una persona, era un angelo, che gli ha affidato un compito incredibile, ma un compitone, un compito molto grande. E qual è stata la sua reazione? Non sono capace, sono piccolo e non valiamo niente. Non sono capace, sono piccolo e non valeva. Gli aveva dato un bel compito che uno dovrebbe impettorirsi, inorgoglirsi, dice: caspita, ho ricevuto questa sorta di compito, io diventare un condottiero, io diventare un organizzatore, io diventare un leader, la guida di una nazione, è assurdo, è incredibile. E invece che cosa fa? Non sono capace. E che cosa gli dice il Signore? Potete rispondere sapendolo, eh? Vi ricordate la storia? No. Eh? No. Sì, sì, dice anche, dice una frase molto forte. Dice, va nella mia forza, dice il Signore. È facile andare nella forza del Signore, eh? Ci nascondiamo. No, non è questo che dice il Signore, che dice il Signore a Gideone. Gli dice: va con questa tua forza. Questo è positivo. Va con... E qual era la forza? E qual era la forza di Gideone? Che era il più piccolo? Sì, molte volte il Signore usa quelli che sono le cose misere e minime della nostra vita per realizzare il suo piano. E qual era la forza di Gedeone? Che era pauroso e che si nascondeva dai suoi nemici. Sì, il Signore usa anche questo per realizzare il suo piano. E qual era la sua forza? Che non si sentiva capace. Va con questa tua forza. Questo è quello che il Signore dice a me e dice a te. Non devi vedere, anche quando tu guardi, quando io guardo ai miei difetti, alle mie mancanze, ai miei desideri, io vorrei essere come, il Signore mi dice: tu lo sei. Il Signore dice: tu sei. Devi solo iniziare ad agire. Va, devi iniziare ad operare. Questo è il messaggio, questo è l'Evangelo, questo è l'essere positivo, questo è il messaggio di Gesù per noi. Va con questa tua forza. Perciò anche noi dobbiamo vedere gli altri. Il tuo fratello, il tuo marito, la tua moglie, i tuoi figli, lo devi vedere non come ci hanno abituati e come siamo stati abituati e inculturati in tutti i modi, vederli sotto la luce dei suoi difetti, perché questo facciamo costantemente. La parola che più conosciamo è sì, ma. Abbiamo cantato: Dio è buono, e dentro sì, ma a me non ha risposto. In questo noi viviamo nella società, in tutto quello che facciamo, anche al lavoro, è sempre questo che noi ci sentiamo dire, è sempre questo a scuola. Io non dimentico mai, è qualcosa che mi è entrato dentro di me, che io andai a parlare con l'insegnante di mio figlio, aveva preso, era talmente eccezionale il fatto, aveva preso 9, perché, allora andai con tutto l'orgoglio, io sono il papà di, sai, quando vai a... Che cosa mi dice l'insegnante? Però poteva fare meglio. Ho detto: io non l'ho mai visto in vita mia un nome, nemmeno in condotta. È incredibile, poteva fare meglio. In questa cultura noi viviamo, e invece la cultura del regno di Dio è: tu puoi, tu sei, tu realizzi, Dio è contento di te. Dio è contento di me, lui vede oltre quello che noi facciamo, perché vede già la vittoria che verrà. Perciò incominciamo a prendere, anzi già lo facciamo, ma di più e di più e di più, prendiamo l'atteggiamento di credere nell'altro, di non guardarlo attraverso i suoi difetti o le sue mancanze o quello che non va bene, guardiamolo attraverso quello che succederà, il frutto che verrà. Questo è positivo. Questo perciò dice: figlioletti, com'è? Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati. Vi scrivo perché, te lo dico perché, perché tu stai andando bene. Perché tu stai facendo bene, perché il Signore è contento di te, è contento di me, e dobbiamo continuare a camminare in questo percorso. Ma poi, andiamo avanti, poi continua. E che cosa dice? A chi si rivolge? Padri. Che categoria è questa? I padri, sì, anche i padri, ma ogni paternità è padre. Qui è veramente una bomba, perché che cosa dice ai padri? Perché tu sei padre, perché tu vivi la paternità, perché tu fai da padre, tu hai conosciuto quello che è dal principio. Incredibile, tu hai conosciuto, tu conosci intimamente, perché la se conoscere, conosciuto, è lo stesso termine che è usato per Adamo ed Eva quando Dio mandò Adamo e dice e la conobbe, in tutti i sensi, è lo stesso termine. Quindi questa è veramente una bomba. Noi conosciamo il Padre perché lo hai dentro, perché lo dobbiamo vivere in ogni situazione che abbiamo. Vivi la tua paternità in qualsiasi direzione. Logicamente qui non parla di sesso, il padre è il maschio, la madre è femmina. La paternità logica anche, ma chiaramente anche ai padri veri e propri. Perché nomina i padri? Perché il padre fa due cose importanti e che lo portano a conoscere Dio. Uno, procrea, genera. Quando generi stai attuando la paternità in qualsiasi direzione. Quando annunzi il Signore stai esercitando la paternità. Quando dai testimonianza di te stesso sul posto di lavoro, del cambiamento che hai avuto, stai esercitando paternità in quel senso. Qualsiasi azione compi e che ti lasci guidare dal Signore, stai esercitando paternità. Quindi il padre genera e cresce. Avete visto mai un padre quando il bambino piccolino che non parla ancora incomincia a dire le prime bla bla bla e poi gli esce fuori, ma solo per caso, ma gli esce fuori pa pa pa. Quel padre, mamma mia quanto è intelligente questo figlio mio, questo diventa uno scienziato da grande, perché gli è capitata di dire quelle paroline. Arrivata a 12, 13, 14 anni, viene e non dice pa pa pa o pa pa, come dice? Pa, pa. È lì, è pesante, dice, mo vediamo quello che viene fuori, quello che mi deve... Questo è far crescere, accompagnare. Quando viene a te e dice pa, papà, ma non parlo solo dei figli naturali, ma in tutti i sensi, perché abbiamo detto quando generi e quando fai crescere, quando affianchi, sei padre, stai esercitando la paternità, e vuol dire che tu sei in grado di portare avanti quel compito perché hai conosciuto il padre. Incredibile conosci il Padre, tu conosci le stesse cose che Dio ha, quello che farebbe Dio lo stai facendo tu. Tu lo stai facendo al posto del Signore. Quindi vivi questa paternità di essere positivo verso l'altro e chiunque, chiunque è. C'è un esempio bello nella Bibbia di essere padre, e questo è per me sempre il simbolo più forte, è di Giacobbe. Giacobbe, sapete, aveva 12 figli, no? Che poi sono diventate le 12 tribù di Israele, e quando era morente, che stava proprio per dare l'ultimo respiro, chiamò i suoi 12 figli a sé, li radunò, e che cosa fece? Li benedisse. Non disse: figli miei, siete tanti, vi benedico. No, non è dire, come quando diciamo, Signore ti benediciamo, che vuol dire? Che vuol dire nella preghiera, Signore ti benedico, che vuol dire? Benedire vuol dire dire bene. E Giacobbe per ogni suo figlio, per tutti e 12, ha avuto una parola di benedizione. E non è che i figli di Giacobbe, il grande che doveva essere grande, Ruben, che poi non è mai diventato la primizia, è andato a letto con una delle mogli del padre, tu immagini quel. Poi c'era chi c'era? Levi e Simeone. Levi, che poi è diventato, sai, quella tribù a parte del sacerdozio, erano violenti e maneggiavano la spada ammazzando a destra e a sinistra. Il padre Giacobbe ha avuto una parola di benedizione profetica per ognuno. Tu sei padre quando dispendi parole di benedizione, non che dici ti benedico, perché quello, quante volte lo usiamo, ti benedico. Vuoi essere benedetto, che significa esattamente il contrario, no? Vedi, e in questo senso anche noi dobbiamo viverlo e vedere, dire il bene, proprio esprime, quando ci viene chiesto vai l'uno all'altro, non fare una preghiera di ringrazio, dici qualcosa di bene per il fratello, qualcosa che hai nel cuore, qualcosa che hai sentito, vallo a dire. Perché? Perché quello è quello che necessita, giusto quello che necessita, affinché l'altro possa crescere, e quando lui cresce tu sei padre. Adotta in questo senso, adotta in questo senso. Perciò dici il bene. Andiamo verso la conclusione. L'ultima parte è quella che io amo di più. Giovani, giovani. Beh, qui si rivolge direttamente ai giovani. Vuoi sentire? Pure a chi si sente giovane, va bene? A chi è giovane nello spirito, lo dice. Giovani, ma che cosa dice ai giovani? Giovani? Sì, furono 300, erano giovani, com'era la poesia? Erano 300 giovani e forti e sono morti. Giovani, avete vinto il maligno, è incredibile. Chi è che vince? Vince chi è combattente, vince chi non si arrende. E i giovani hanno questo in sé, hanno poco il senso di fallimento. Vedi, un fallimento in un giovane e il fallimento in un adulto. Il fallimento in un adulto diventa una tragedia che non finisce mai. In un giovane diventa qualcosa da iniziare da capo, una nuova sfida. Per questo l'Apostolo Paolo, quando doveva affidare un compito molto importante, a chi lo affidava? A Timoteo, a Tito, a Sila, che erano dei giovani collaboratori, anzi molto, molto giovani. Quando aveva da dare un compito così, portami il mantello quando viene a trovarmi, era a quegli adulti. Paolo affida di strutturare chiese, nominare anziani, di creare una squadra leadership nelle chiese, di equipaggiare queste persone e farle andare avanti da sole. Ha mandato i giovani, ma lui era molto più capace e lui era molto di più, ma ha creduto in questi giovani che erano dedicati e loro hanno potuto strutturare la chiesa primitiva. Se noi abbiamo questa struttura oggi di chiesa è grazie a quei giovani che Paolo ha mandato e che hanno messo le basi per una struttura funzionale per la chiesa del Signore. Non ha dell'incredibile anche questo? Vedi come pensa bene il Signore, mentre noi, quando noi pensiamo sì ma è piccolo, ma non cresce mai. Faccio 70 anni fra poco. Per mia sorella, che è 7 anni più grande di me, quando parlo con le figlie dice sì ma lo zio è piccolo. Sono sempre piccolo, rimani sempre piccolo, cioè fa anche piacere a una certa età, ma comprendete il messaggio che c'è dietro? No, adotta, credi e fai andare avanti. Non pensare che l'altro, solo perché l'altro vede diverso, che non vede come te, è cieco. Assolutamente, vede solo diversamente la cosa. Prendiamo l'esempio della musica. Io, mia moglie, sai, quella sinfonia classica dolce, e i giovani, quella cosa lì che tu lo senti, lo stomaco non è pieno ma va avanti e dietro. È sbagliato? No, è diverso. Prendi mia moglie e me, noi facciamo le passeggiate qualche volta. Allora, quando guardiamo a qualcosa, io guardo a qualche rudere e mia moglie ai fiori. E non è, di questo ho una testimonianza visiva e reale, non è un modo di dire, è proprio così. Vi faccio vedere delle foto. Guardate questa foto. Ecco, questa è una foto che ho fatto io. E io ho fatto, mi è piaciuto il casello, è a Molfetta qui, è molto bello, lo hanno restaurato, è molto bello. E io faccio la foto qui, che cosa vede mia moglie? Nel mio cellulare vede tu, oh, che bello hai fatto quelli, e intendeva, e mi ha obbligato a fare un'altra foto. Ho detto le pietre, io no, vedi l'altra foto, ho dovuto fare questa, è vero mia moglie, e io ho detto le pietre devo fare, no, mi ha inquadrato il coso e mi ha fatto fare la foto. È diverso, ma questo, il rudere, il castello è più bello dei fiori o i fiori è più bello? No, sono solo diversi e abbiamo una visuale diversa, perciò credi nell'altro e opera positivamente, adotta. Termino qui dicendo semplicemente, Evangelo vuol dire positivo, E il Signore ha guardato a me e a te positivo. Ha detto tu sei morto e perciò sei salvato. Noi pensiamo come Dio. Quando noi vogliamo dire una buona parola a un nostro amico, a un nostro conoscente, vogliamo dire una cosa positiva, che cosa diciamo? La stessa cosa di Dio. Infatti noi diciamo che è la stessa cosa, dalla stessa prospettiva. Perciò guarda all'altro e obbligati ad avere un pensiero e una parola positiva. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore. Signore Gesù, vogliamo dirti grazie per l'Evangelo che ci hai dato, che veramente è una carica e una dinamite per noi, che ci permette di vivere ogni situazione alla luce di come tu vedi, alla luce della tua volontà. Perciò io voglio invocare per ognuno di noi cambiamenti di pensieri, Signore, affinché noi possiamo vedere positivo come vedi tu positivo, che noi possiamo vedere oltre come tu vedi oltre, e che noi possiamo essere per l'altro un padre. Signore, ti ringraziamo perché tu sei in tutto questo al nostro fianco e vedi quello come lo facciamo bene, perché il tuo Santo Spirito è al nostro fianco ed è con noi e per essere un mezzo anche per gli altri. Ti ringraziamo, Padre, nel tuo nome. Amen. Amen. Amen. Abbiamo la cena del Signore e come suol dirsi, capita a fagiolo, nel senso non stiamo loro solo lì ad ascoltare un messaggio, perché mi fate sentire anche male, io che parlo e voi che state là come burattini. No, viviamolo dentro. Io lo so che noi lo viviamo dentro, io lo so che noi, ma lo dobbiamo anche esprimere e mettere fuori, e il mezzo è decisioni. Prendiamo decisioni. Io voglio dire semplicemente questo: mentre ci avviciniamo alla cena del Signore, la cena del Signore, che cos'è innanzitutto quello che Gesù ha detto? Ricordare. Quindi è un ricordare quello che Gesù ha fatto per me, che lui è morto per me, mi ha riscattato e io sono vivo. Quindi vedete quanto è positivo questo. Siccome il Padre ha creduto in me e mi ha accettato così come sono, la stessa cosa dobbiamo fare anche noi: accettare l'altro così com'è. Forse hai una persona, un parente, un amico nella tua vita che non riesci ad accettare perché o ti ha fatto del male, o perché vede diverso, perché fa diverso. Obbligati questa sera a prendere una decisione di voler vedere positivo questo amico, questo parente, questo fratello, chiunque lui sia. E poi anche sappi che i risultati che tu hai raggiunto, la statura che tu hai raggiunto è perché hai avuto un padre. Allora sii padre. Incomincia a credere e ad adottare qualcuno, anche proprio nome e cognome, durante la cena del Signore. Prendi qualcuno che vuoi adattare nella preghiera, o nel voler incoraggiare, o nel voler affiancare, nel voler essere un esempio, qualsiasi cosa. E poi l'ultima cosa: non pensare, sono solo un ragazzo, come Samuele ha detto. No, se il Signore crede in te, Se il Signore crede in te, tu devi iniziare a credere in te. Perciò prendi decisione. Ora, quando noi andiamo a prendere il pane e il vino, stiamo ricordando che il corpo di Cristo è stato dato per noi e che il sangue di Cristo è stato versato per il nostro riscatto. Ed è per questa ragione che prendiamolo e riflettiamo sopra su chi voglio adottare, su chi è necessario che io operi con sentimenti e pensieri positivi, su chi io voglio affiancare. Prendi una di qualsiasi, ma qualsiasi di queste decisioni, ma prendi decisione. Prendi decisione, perché questo ti mette davanti al Signore. Una decisione, anche se poi tu domani la dimentica, ti ritornerà, perché lo fai con tutto il cuore e lo fai con tutta la mente, lo fai davanti alla cena del Signore e poi ti ritornerà a mente, e quello ti stimolerà ad andare indietro e a fare il passo che hai promesso. Perciò prendi decisione, che vuol dire compromettiti davanti al Signore. Comprometti, perdi la faccia, ma fallo. Perciò nel prendere il pane e il vino, pensiamo in questa maniera. Lo puoi fare con tua moglie, con tuo marito, lo puoi fare da solo, lo puoi fare con qualcuno, ma prendi decisione. Se hai bisogno di aiuto, di dire all'altro io devo fare questo e ho bisogno, allora chiedi preghiera, fallo insieme. Perché? Perché siamo una famiglia, perché il Signore crede in noi, crede in me come crede in te, crede in tutti quanti noi. Allora facciamolo con determinazione e con impegno. Vogliamo pregare. Signore, ora che ci accingiamo a partecipare alla cena che tu hai istituito per noi affinché noi potessimo ricordare l'opera che hai compiuto per noi e che questa si rinnova e si ripete in ogni istante della nostra vita, per ogni situazione che viviamo. Fa, o Signore, che questo possa significare per noi vedere gli altri come li vedi tu. Vivere gli altri come li vedi tu. È in questo, Signore, che noi cerchiamo l'unità che tu ci hai promesso. Benediciamo il pane e il vino e ognuno che parteciperà nel nome tuo, Gesù. Amen. Noi usiamo che ognuno può partecipare, che ha preso la decisione di seguire e servire il Signore e ha fatto il battesimo da adulto. Ora, se tu non hai ancora preso una decisione o se tu non hai fatto ancora il battesimo da adulto, questo non ti mette in seconda categoria, assolutamente. Anzi, affiancati a chi lo fa e pregate insieme. Perché? Perché questo è quello che il Signore vuole. Non ci vede inferiori e superiori, ci vede. Non è un partecipare o non partecipare che ci rende diversi, che ci rende l'uno di prima categoria e l'altra di seconda categoria. No, siamo tutti figli suoi e alla stessa statura davanti a Lui. Perciò partecipiamo.